adesso il tocco finale. Yo yo, Slippers mixtape finita. 2011, dal 2010 al 2011. Andate tutti a fanculo. Peace. Tutti quanti. Dal primo all'ultimo strono, domani sta in giro. Va a Bologna. Che fa roba di merda. Vi taglio a tutti. Ed è finito il viaggio, man. Scrivo le ultime parole. Ore sbattimenti, scazzi, tagli sul campionatore. Buchi sotto le mie suole, poco sole, tanto fumo. Tanta nebbia che sta stanza, io non vedo più nessuno. L'ultima traccia, il beat è fuori qui per me. Resta l'unica missione, darvi solo del buon rap. E fre, stai meglio te, con la bamba nei privé. Ci sto male, ma con me rubo le corone re. Quest'anno ne ho scritte 100, stando dentro molto tempo. In questo tempo resto attento, non riempo col sentimento. Pretendono che sia simile ad un simile visibile. Tra chi si billa sillabe, resto l'irraggiungibile. Tangibile il mio flow, tiro ostaggio il vostro hip hop. Si presenta sotto shock, sparato fuori da una clock. Toc toc, apri la porta, questa torta sulla faccia. Finita la mixtape, ma col cazzo di una traccia. È la traccia, testamenti, non dal giorno della fine. Del trentenne troppo scemo che cammina sulle spine. Ci sono troppi Texas Walker, fanertoni con revolver e svarioni tipo E.T. Manco fosse un film di Steve. Per te bello, per me stile. Grazie mille a tutti quanti, a chi non vuole sentire. Chi approfitta mendicanti, a chi non ci crede più. Tu che metti su YouTube ogni tua cazzata in rima. Mi ricordi perché farlo di mattina. Gira, gira, l'arsenico fa effetto dentro un colpo che oramai è più acqua che stravecchio. Come vecchia è la speranza di stravolgere nell'assetto. Come vecchia è quella faccia che ormai vedo nello specchio. E non giuro, stavolta questa è l'ultima che scrivo. Bella fat, caro amico, l'ho carpito. Meglio essere un po' meno consapevole. La storia è una leggenda che si spegne il giorno della sua vittoria. E adesso ne facciamo un altro.